ma anche oggi già si sta bene. Che se no mi tocca svegliare quella bagassona della madre. Sta creando madre di rispondere al telefono. Aspetta un'altra volta, eh. Adesso ti piombo di telefonata, adesso mi hai rotto i coglioni. Questo stronzo, beh, quelli tipo a me ti date proprio in culo. Voi è che vi ha dato pure i barchi nel mare. Stronzo. A te e a quella bagassona tua. Perché mi ero rotto i coglioni! Mi ero rotto i coglioni! Che faccio dormire stanotte? Piombo di telefonate, eh? Coglione, croce, drogato.